mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Buonasera, buonasera a tutti, buon sabato sera su quest'ultime note della classica ormai sigla di Basement Records. Questo è sempre Radio Wombat e qui per voi stasera una serie di vinili recuperati in puro stile Basement dal nuovo ospite speciale che c'è questa sera. Buonasera. Buonasera, buonasera, qui abbiamo, avrete riconosciuto la voce. E da un secondo è impossibile, ma... No, come no, se no volevamo vedere se... Ti sarà banda, erano... lo so! Tu, ce l'ho, ce l'ho! Ce l'ho, ce l'ho! Ed è qui con noi DJ Lomax. Buonasera a tutti, stasera vi ho portato un po' di vinili fondamentalmente a caso, ma che ma hanno... Giustamente. Ognuno vinile ha una storia sua personale... Per come è arrivato a casa mia, dove l'ho preso e quindi non sono a caso, dai. No, no, sono tutti studiati, mesi e mesi di studio. Studio. È qui che ci vedevamo, stava con la scaletta sempre in mano, escludeva, rimetteva. Sì, Quanti mesi ci hai messo per fare diversi, questa scaletta? Diversi, diciamo ci ho messo gli stessi mesi per far uscire il disco che tra un po' sentiremo. Ecco, tra l'altro appunto ho deciso come primo disco di mettere un disco mio dove ci sono io che canto, un disco di un mio gruppo che si chiama Carlos Dunga e grandi Carlos Dunga e quindi ho detto appunto prima internazionali internazionale sì dai alla fine dopo essere andato in Indonesia mille anni fa e aver girato un po' in Europa dai Siete sempre in giro, non ti sminuire così. Qui stasera abbiamo una star a livello internazionale. Non è che non ti dico così. Che... Insomma, si diceva di questo disco che ci ha messo 2 anni a uscire, perché l'abbiamo registrato, vedevo ora e non mi ricordavo, nel 2014, ed è uscito 2 anni fa, anzi 2 anni e mezzo fa, nel 2016. Ma le cose belle hanno bisogno di tempo sì. Soprattutto per nascere, crescere, no? Sì, la nostra inattività dal punto di vista, diciamo, di ricerca di etichetta. È stata una gestazione lunga, ma... Molto lunga, però alla fine ne è valsa la pena. Infatti è il risultato quello che conta. Sì, il risultato sarà questa canzone che ascolterete a breve del disco appunto dei Dunga. Il disco si chiama Sabato Nero e la canzone si chiama Sabato Nero. Arriva tra un secondo. Ovviamente Basement Records, Radio Wombat. Ed eccoci, questi erano i Carlos Dunga, ma visto che abbiamo proprio il protagonista qui dal vivo di questo disco, come esclusiva Basement Records, raccontaci un po' di come sono andate le registrazioni. Mi raccontavi di una gestazione appunto molto lunga, cioè per cercare le etichette. Sarà una storia che sicuramente accomunerà un sacco di gruppi punk, di gruppi anche non solo punk. Certo. Sì, cioè questo disco qui l'abbiamo registrato appunto nel 2014 ed è uscito 2 anni dopo, perché siamo stati prima di tutto un anno senza nemmeno provare, quasi, perché fra lavori, certo, tra un impegno e un altro, gruppi, siamo stati tipo, sarei registrato 6-7 mesi senza provare. E ci siamo completamente dimenticati di cercare le etichette. Quando ci siamo messi alla ricerca, prima abbiamo raccattato qualcuno e ci diceva, perché nel punk c'è questa cosa delle coproduzioni, sì, che ci aiuta, piccole etichette danno piccole somme e ti danno una mano a pubblicare i tuoi lavori. Sì, insieme si pubblica il lavoro e poi ognuno si prende la rispettiva quota di copie. E dopo averne trovate poche, ci siamo un po', diciamo, abbiamo perso la fiducia, e poi un nostro amico di Prato ha detto: ma se volete ve lo faccio uscire io. ed è stato il primo disco che ha fatto uscire con la sua etichetta, che era una di quelle che stava nelle coproduzioni, la numero uno dell'etichetta, sì, tra sì, l'altro, beh, pensa te, la Puntiscena Records. E niente, poi il disco è uscito, ci ha messo poi i mesi per arrivare, perché se te sei l'ultima ruota del carro quando fai gli ordini, ormai sono rimaste certo. Poche fabbriche in Europa che stampano dischi. Ultimamente il disco, il vinile è tornato di moda. Però le presse sono sempre quelle. Perché comunque via via negli anni hanno venduto tanta roba. Infatti c'era in Italia, c'era tre o quattro stamperie, ora è rimasta solo la Fonopress a Milano. E hanno comprato una stampa, una cosa nuova, una pressa nuova, perché... Cioè, ha sempre il lavoro, sì, perché il lavoro gli sta salendo molto e noi l'abbiamo stampato da loro e i dischi sono arrivati con dopo tanto tempo, molto ritardo. E, certo, passava sì. Via via i nomi grossi passavano infatti avanti. Noi ci immaginavamo tipo, la ristampa di Vasco Rossi, che dopo queste robe qui. È passato avanti anche il maiale, come sì, si dice. Sì, sì, sì. Però alla fine ce l'ha fatta. Alla fine ce l'ha fatta. È nato questo sì, vinile. Ma noi la cosa figa è stato pressato. E quando questo disco è uscito, noi avevamo già 5 pezzi nuovi per l'album nuovo che abbiamo registrato 2 o 3 mesi fa. 3 mesi fa, sì. E che deve uscire con un'altra etichetta. Ora abbiamo. Ne parlavamo giusto settimana scorsa con la War Records di nostro grande amico Pietro, che ce lo vuole far uscire. Lui fa delle cose molto carine, perché fa vinile e fumetto insieme nell'uscita. E c'è un molto disco interessante. Sì, è ganso. C'è, che ne so, ha fatto il disco Tu Nonna con i disegni di Tono Pettinato, il disco De Leviathan con i disegni di bello Tu tutto Nonna. Associato sì. un gruppo a un disegno a un fumettista sì. Molto interessante. E noi forse invece non faremo questa cosa del fumetto, ma le ultime idee di Pietro, che è stravagante per usare un termine. Questa è una preview, non lo sì, sa sì, nessuno, non lo sa nessuno. È una confidenza in amicizia. Sì, sì, questa raccontatela a poca gente, perché se si sparge la voce... Tenetevelo per voi, Molto probabilmente un fotoromanzo sceneggiato da un fumettista italiano. Ma e come dottor quelli Pira. Che leggeva la nonna? Sì, quelli lì, però sceneggiato da dottor Pira, che è il fumettista dei fumetti della Gleba, che è un pazzo scriteriato. Bellissimo. Cioè, una delle persone più di fuori del mondo. Se vi capita... L'idea è geniale. Se vi capita, andate sul sito Fumetti della Gleba, che è aggiornato... Mi sembra prima di Windows 98, ha i driver, cioè proprio lui lo dice all'inizio del sito. Questo sito è aggiornato al 1998, cioè è proprio va fiero di questa cosa. Bellissimo. E quindi boh, si starà a vedere cosa ne esce. Bello, bello, no, grande. E il prossimo, parliamo del prossimo disco. A questo punto ci eravamo soffermati appunto a farci raccontare un po' di storie di questo primo disco, ma giustamente, no? Sì, sì, adesso parliamo del prossimo disco, che è una pietra miliare. Vabbè, alziamo le mani. Del punk hardcore mondiale. Praticamente è una ristampa dei primi 2 EP di Manor Threat. Certo. E questo disco l'ho comprato a 7 euro, qui c'è scritto da vendere a 7 dollari, l'ho comprato a 7 euro al negozio di dischi, quello che c'era in Via Alfani. Che c'era in Via Alfani. Mm-hmm. Andai una volta per caso, invece di andare all'università come tutti i giorni, dicevo ma vado all'università, poi in realtà non diventavo mai, tra il barrettino di lettere e il negozio di dischi c'era sempre a non fa una sega. Però eri nei dintorni dell'università. Sì, sì, no, comunque. Certo. No. Quello di sicuro. Non mi spostavo di lì. La sintassi era ineccepibile, certo. Direi, no? Certo. E niente, ho preso questo disco, che è una ristampa dei primi 2 7 pollici. E la cosa bella di questi 2 7 pollici è che praticamente questo disco è stato il primo disco totalmente autoprodotto, nel senso che erano dei poveri Manor Threat all'epoca, e sicché cosa fecero? Erano i primi 2 EP, quindi sicuramente non li conosceva nessuno, no, erano no, d'esordio. Erano all'esordio, certo, però comunque avevano già una fan base, come si dice in inglese, sì. Un po' di live li facevano all'epoca. Quindi avevano già la base di pubblico, sì. Comunque anche se non avevano pubblicato niente. Certo. E cosa fece? Loro praticamente la cosa figa è che loro si fecero stampare solamente il disco e il resto lo fecero loro, cioè le copertine Infatti, se voi vedete come sono fatte tutte più o meno uguali. Sono, c'hanno una linguetta che si gira e si incolla alla parte sopra e ti diventa rigida. E loro praticamente cosa fecero? Presero le copertine dei dischi e stampavano il massimo dell'autoproduzione. Sì, le smontarono, cercarono di capire come farle, fecero una grafica uguale, le portarono in stamperia e si misero lì a stampare le loro 1000 copie, perché poi, sapendo di venderle, risparmiavano, cioè, hanno risparmiato sul disco, cioè sul disco, hanno ristampato sulla carta spendendo solo per il disco, e quindi sono permessi di stamparne di più. Fantastico. E ne hanno 1000 tutte tagliate a mano, handmade. E poi spedite in tutto il mondo, perché questo disco qui è stato stampato un monte di volte. Io non mi voglio immaginare quanto possa valere sul mercato del la vinile prima stampa. Al giorno d'oggi, la prima stampa, quella proprio con la copertina fatta a mano. Guarda, non lo voglio nemmeno immaginare. Io una volta mi sono messo a cercarla e non l'ho trovata. Però prima di Discogs, su eBay anni fa, ora quasi va su Discogs, che è quel sito in cui te puoi andare a vedere tutti i vinili del mondo, tutte le uscite del mondo, lì ci sta che le trovi, perché ora le puoi anche comprare. E probabilmente vai a cercare il prezzo di questa prima stampa, non compare nessuna cifra, ma direttamente un paio di reni, molto probabilmente, sì. Con già il nome del chirurgo e del destinatario degli organi. Certo. E niente, dai, mettiamo questa chicca. E questa è In My Eyes dei Minor Threat, ovviamente a Basement Records, Radio Wombat. Let's go! Siamo tornati qua in diretta dopo i Minor Threat con In My Eyes, un pezzo di storia veramente dell'hardcore. Sì, dell'hardcore, ma anche della musica in generale. Sì, uno dei migliori cioè nelle quelle classifiche del cazzo dei 100 dischi fondamentali, nel punk c'è questo, diciamo, che sicuro. Comunque è stato il primo gruppo hardcore americano straight edge. Sì, sono stati quelli l'altro. Che hanno mandato avanti, hanno inventato tra virgolette la filosofia straight edge, che è una canzone di uno di questi due EP. Ah, tra l'altro è contenuto in uno due EP. Sì, la canzone si chiama straight edge, dice io non bevo, io non fumo, io non scopo. Paio di coglioni. Sì, però condivido. Condivido, però nell'America dell'epoca e giro dell'epoca in cui lo sballo e il divertimento erano le uniche cose diciamo che facevano i punk, era proprio era la rottura, la rottura rispetto a tutto quello che rappresentava il prima, sicuramente. Sì, sì, il No Future, no? Certo. Cioè alla fine loro di ascolti avevano quello. Cioè loro ascoltavano il punk nell'80, cosa ascoltavi? I Clash, i Ramones, i Sex Pistols, quello era punk. E poi è arrivata la violenza, cioè è arrivata questa violenza qui positiva, questa minaccia che era questo disco, e niente, è stato un bel punto fermo storia del punk, sicuramente. Sì. È stato un cosiddetto punto di rottura, ecco, rispetto a tutto quello, alla musica precedente, anche se dello stesso stile, è proprio un punto di rottura all'interno della storia del genere. Sì, sì, poi soprattutto c'era anche in America, cioè in Italia il punk è stato subito legato alla controcultura già esistente nel paese. I punk andavano dove c'era già politica, dove c'erano le occupazioni, e quindi si formavano politicamente. C'era chi seguiva un filone anarchico, chi comunque un filone autonomo, mentre nell'America il punk era solamente c'era essere un ragazzo sbandato era fuori dalla società, e loro comunque cercavano di incanalare quest'odio avevano per la società nella musica, mentre gli altri erano tutti canne, divertimento. Cioè era anche una presa di coscienza del mondo. Per quello dico un atto di ribellione rispetto all'establishment. Certo, sì sì. A quello che veniva considerato anche giusto anche nella controcultura, perché il punk è un punto di rottura anche rispetto alla controcultura, alla controcultura. Sì, è stato un fenomeno proprio a sé, che ha diviso un momento di separazione, ecco, di separazione, uno spartiacque all'interno della storia della musica. Sì, e hai detto separazione, e questa parola ci lega al pezzo che metteremo dopo. Giustamente. Perché il pezzo che metteremo dopo, che non c'entra niente con quello di prima, è un pezzo di Litfiba tratto da Il Diablo, e si chiama Gioconda. Un pezzone della Madonna, cioè bellissimo, tutt'altro genere, bello, storico soprattutto per quelli di noi qua della città di Firenze. E non solo, della Firenze degli anni 80, della scena New Wave italiana di sicuro. Certo, però cioè, qui erano già più commerciali, però comunque sono stati punk anche loro, hanno fatto po' di rottura anche loro. Prima di Litfiba, dai. Piero Pelù faceva il punk, tra virgolette, poi bisogna vedere quanto lo facesse per emergere e quanto perché ci credeva davvero. Veramente. Però comunque sì, e dicevo separazione perché? Perché il pezzo Gioconda parla del matrimonio e volendo anche della separazione, cioè come fare? Non te lo do l'anello, Noah. Scordatelo. Insomma, praticamente ti dice: perché ti devi separare? Non ti sposare direttamente, no? Certo. Tra l'altro, cosa figa, ho scoperto recentemente che c'è un video di questa canzone. Sì, sì. Hai visto c'è Piero Pelù che va all'altare? Sì. Quella lì è la madre dei suoi figli. Cioè, non è un'attrice, è quella che, insomma, era la sua compagna. Ah, sì? Non so se sua moglie, però sicuramente la madre di una delle figlie. E quindi mi ha fatto ridere questa cosa, che grazie a Facebook scopri queste cose. Davvero, ogni tanto magari è utile. Sì, perché la figlia di Piero Pelù... Per i gossip di sicuro. Infatti, per i gossip è fondamentale. La figlia di Piero Pelù scrisse anni fa... guarda mamma com'eri giovane qui quando andavi a lottare con babbo. E quindi ho detto, ah, minchia, palese. Ma te segui la, figlia, sì, perché... o segui la madre? No, no, no, no. Io... non so perché, ho amico la figlia, cioè perché in realtà era una mia... era un'amica di una mia ex, quindi boh, l'aggiunsi su Facebook. Ah, la figlia di Piero Pelù, quindi subito, focatissimo, aggiungere. Aggiunge agli amici. E allora sentiamoci questa Gioconda, no? Classicone. Basement Records, Radio Wombat. si rimembrava i tempi andati con questi, con questo pezzo dei Litfiba. Sì. Mamma mia, da bambino le cose Litfiba andavano proprio a bomba. Sì, io ero cioè, quando uscì questo disco avevo 4 anni e diciamo che qualcosa me l'ascoltavo, però non... Non, cioè, i miei genitori non ascoltavano tutt'altro, ma ascoltavo più i Queen o. A me da ragazzino non mi dispiacevano. No, anche poi, se poi quando dopo... li ho scoperti, tra virgolette, mi sono piaciuti tantissimo. Però non c'ho ricordi che, cioè, non è che me li ascoltavo perché ne so, perché li sentivo. Sì. No. Cioè, e quindi... appunto ti raccontavo fuori trasmissione che appunto il batterista dell'Litfiba a tempi, il Trambusti, me lo ricordavo appunto che insegnava, faceva i corsi di batteria alla Casa del Popolo quando ero ragazzino, e un mio amico appunto anche imparato a suonare la batteria da lui appunto. Tempi andati. Il batterista di FIBA alla Casa del Popolo insegna batteria. Sì, erano i tempi ancora, c'era le ruote quadrate. sì. Le ruote piene, i raggi non erano stati inventati. Quelle cose lì, c'erano i Flintstone. C'era i maiali che mangiavano il sudice da sotto il lavello, quelli. Era il tritatutto, era il tritatutto. Tra l'altro l'altro giorno siamo andati va, questo che siamo andati a suonare e parlavamo di Mamma ho perso l'aereo, che è uscito nel 94, come i Flintstones. E anche è uscito nel 94, è uscito anche The Mask, i Flintstones e Mamma ho perso l'aereo, tre film bellissimi nel 94, anno d'oro del cinema mondiale. Vabbè, queste cazzate, torniamo indietro all'86. C'è Ghezzi si è forato le orecchie, se ci sta ascoltando con un ferro arroventato che è passato da parte a parte in questo momento. Però no. Memorabili senza ombra di dubbio. Memorabili senza ombra di dubbio. Poi, cioè, belli senza ombra di dubbio. Da ricordare non lo so. Chi è che non l'ha visti? Cioè. Anche suo malgrado, non lo so. Sì, no, infatti. Vabbè, dal 94 torniamo indietro all'86. All'anno... Appena metà degli anni 80. Sì, l'anno d'oro del thrash metal. Questo è l'anno d'oro del thrash metal. Sono usciti Raining Blood degli Slayer... È uscito Master of Puppets di Metallica. Insomma, un gran bell'anno per il metal. Però noi parliamo di punk. Parliamo di punk italiano. E perché in quell'anno lì esce quello che viene considerato il disco più bello del punk hardcore italiano, In Negazione. Lo spirito continuo di Negazione, appunto. Questo disco qui. Raccontaci un po', perché allora, sicuramente, cioè, sei veramente un'eminenza grigia del panorama punk nostrano. Quindi allora, meglio di te non si sa che ci possa istruire. Almeno in questa cosa. Almeno in questa stanza. In questa stanza, proprio senza ombra di dubbio. Ok, questo disco qui. Lo trovate in vendita in prima stampa a non meno di 300 euro. Io non l'ho preso lì, perché non ce l'ho quei soldi. Però sono andato l'anno scorso alla Contempo a prenderlo. Contempo perché Records. La Contempo Records ha curato una ristampa di tutti i dischi bene, di Negazione. Benemerita, direi, Contempo Records. Sì, benemerita Contempo Records, da cui ho preso anche altri dischi. Però lì ho preso questo disco qua, che è un cofanetto... con tutte le stampe di Negazione, tutti i dischi ristampati, 7 pollici, vinili, la cassetta del tour, un box bello, perfetto, con la maglietta del tour europeo dell'88. E quando è uscito, il giorno in cui è uscito, è venuto a presentare il disco il bassista di Negazione, Marco Matteo, che è un giornalista sportivo, tra l'altro è andato proprio a fare tutt'altra cosa, e tra l'altro ora non so nemmeno come sta, perché un anno fa fece un incidente in Vespa e rimase in coma per diverso tempo, quindi non si sa, dice è ancora all'ospedale, però non si è capito se riconosce la gente, non si sa niente, cioè perlomeno non ho voluto indagare. Facebook ti dice tutto, sia in positivo che in negativo, quindi basta un attimo indagare. Però vedevo insomma tempo fa tutti dicevano: ah, Marco, dai, ce la fai. E insomma, speriamo quel giorno c'era lui. Speriamo, sì, certo. Speriamo si, insomma, stia meglio. E quel giorno c'era lui a, a fare una sorta di presentazione. E c'erano anche altre, c'era in 5 o 6. E tutti si fecero autografare il cofanetto da Marco Matteo. Oh, l'autografo. Che passa tranne, io. Tranne te. E io lì, sì, no, guarda, l'autografo, io queste cose. Queste cose non mi piacciono, nel senso, cioè, te mi piace quello che hai fatto in questo disco, ti ringrazio anzi per quello che hai fatto, ma l'autografo no, anzi a me mi basta solo stringerti la mano e ringraziarti per quello che hai fatto per tutti quelli che ascoltano la tua musica. Lui, oh, che stile, grande, siamo stati un po' a parlare, gli ho anche fatto vedere il tatuaggio che ho di un vinile con scritto Lo Spirito Continua, e appunto Lo Spirito Continua, Denegazione. Sentiamoci la title track, no? Per forza. Lo Spirito Continua, scritta dal testo bellissimo scritto dal batterista Denegazione dell'epoca, che è morto tipo 2 o 3 anni fa, poverino, che ha suonato anche nei China, mi sembra. Aspetta che mi sono dimenticato di lo dedicherei a lui a questo punto. Sì, lo dedicherei a lui e anche a Marco, che non si, certo, sa come sta. Senza dubbio. Negazione. Lo Spirito Continua, sempre qui su Basement Records, Radio Wombat. Questi erano In Negazione con Lo Spirito Continua. Sì, questo, come dicevamo prima, appunto, stavamo parlando dell'idolatrare il musicista, dell'idolatrare la persona e dimenticarsi che quella persona, insieme ad altri, ha fatto un disco punk che è contro il sistema e contro l'avere qualcuno sopra di te. E quindi per quello non mi sono fatto fare l'autografo. L'autografo, sì. Era un po' come si diceva, appunto, fuori onda, un po' come tradire un po' lo spirito con cui sì. era stato pensato il disco e il messaggio, soprattutto, che voleva mandare, che conteneva sì, questo sì, disco. Sì, sì, sì, e l'attitudine che si portava però appresso. Però nella logica commerciale, anche appunto, che se è un gruppo punk, cioè purtroppo, tra virgolette, l'utente medio... Anche se è un gruppo punk, però è comunque un oggetto, un bene di consumo. E prendano e si vanno a fare autografare il era un cofanetto e costava 95 euro. Ora, tra una cosa e l'altra, sono un po' di soldini. C'era tutte, c'è 4 vinili, 2 7 pollici, la cassetta, la maglietta. Ora, se ci pensi, se li prendi separati... Avresti speso molto avresti di più. Speso, soprattutto con i prezzi che ci sono di questi dischi e non sono stati ristampati. Certo. E loro tanto hanno fatto 300 copie di questo cofanetto, quindi sapevano di venderlo e sapevano di rientrarci, anche perché molte sono andate via in prevendita. Anche perché se non venivano pubblicate da metà degli anni 80, sì. appunto una volta che sono state ristampate... Certo. Tantissime sicuramente saranno andate via, come, per certo come, con le prenotazioni. Come quando hanno ristampato recentemente Sangue Misto. Cioè, non so se seguivo la cosa. Era dal 95 che non... Una volta ristampato, finiti tutti, ritrovati su disco il giorno dopo. È del 95, come l'hanno ristampato... È sparito se subito. Se lo sono magnato. Certo, le cose... Ancora qualcosa resiste anche nel 2019 che non è stato ristampato, sono sempre meno, ma quando vengono trovate appunto delle cose, anche se di nicchia, ma comunque seguite, quando poi viene fuori la ristampa e magari arriva con 20 anni che è uscito fuori dal mercato, ovviamente... viene scompare. Se lo mangiano. Ora, questa trasmissione sembra quasi preparata perché trovo una parola che dici te e mi collego al disco dopo. E non è vero. E non è vero, lo giuriamo. Sì, sì. Cioè, ma tipo, si sta parlando di ristampe, no? Sì. E quindi ora, a caso, c'è questo disco che ho io, che è una ristampa lituana. No, tra l'altro storia fantastica che vi faccio io lo so, me l'ha raccontata prima quando ci siamo incontrati, e appunto è proprio questo il bello di Basement Records, no? Le storie che ci sono dietro ai vinili. Sì, e la storia di questo vinile la storia di questo vinile è che, allora, io l'ho comprato da un gruppo bielorusso di Minsk, a cui ho organizzato una data qui a Firenze e una data ad Ancona e una a Milano, e quando vennero a Firenze, appunto, all'Emerson a suonare, vidi che avevano tre dischi, tre vinili in più copie, e uno di questi era anche No Pleasure dei Joy Division a 5 euro, ma erano messi male, cioè come questo qui, questo c'ha la copertina in cui la parte superiore viene via e si vede il colore del cartoncino sotto, è tutta rotta, perché è una ristampa lituana. Praticamente questi ragazzi, andando a suonare in Lituania, andarono in questa casa discografica ormai fallita e andarono nel basement, mi sa, a questo punto, trovarono tutte queste ristampe invendute. E che fecero? Presero i dischi che secondo loro erano più appetibili ai concerti punk, e iniziarono a venderli tutte le volte che andavano in giro. Erano in tour in Europa, gli rimasero queste copie, io presi anche No Pleasure, ristampa lituana a 5 euro. Occhio fino, Sì, quando poi mi hanno raccontato dove il batterista mi raccontò appunto dove trovarono le copie, e io rimasi estasiato e presi questo, e anche l'altro era un disco dei Rolling Stones, che è un disco dei Rolling Stones. Tra l'altro sarebbe stato interessante sapere se magari era una ristampa di quando era esattamente, perché ovviamente finché c'era il muro e c'era il blocco sovietico, il rock occidentale non poteva passare la cortina, certo. Era solo super underground, perché se ti beccavano con una copia per dirne una, dei Rolling Stone o in questo caso dei Joy Division, anche se i Joy Division eravamo verso appunto la caduta, più verso la caduta del muro, ma se ti beccavano con un vinile di, diciamo, rock tra virgolette occidentale, erano cazzi tuoi, come si dice da queste parti, ti facevano un culo come un paiolo, insomma se volete vedere cosa vi possono fare, andatevi a cercare i live dei Metallica alla Piazza Rossa, e c'è un live, mi sembra nel 91, in cui la gente inizia a pogare e gli sbirri picchiano quelli che pogano, perché non sanno cos'è pogare, cioè vedono questi che si stanno menando e quindi vanno a disperdere la folla. Ma in un certo senso hanno fogato anche loro. In un certo senso è stato un po' collettivo. Comunque, questo disco io. Sbirri, quindi avevano anche manganelli perché volevano la cosa in più per non prenderle proprio. Certo. Per non giocarsela alla pari. Sbirraggi. Sì. Comunque, questo disco penso sia dopo la caduta. Sia stato stampato dopo la caduta del muro. Comunque, mi ricordo che loro mi dicevano era un'etichetta, era nata dopo la caduta del muro, quindi cioè secondo loro è andata così. Era nata subito dopo la caduta, appunto per ristampare i grandi successi diciamo della musica occidentale, tra virgolette. Questo, se no, può essere anche... comunque questo è un disco, visto c'è Division, la Berlino degli anni 80, ci sta che... non si sa, noi intanto ce l'ascoltiamo e... Cioè sicuramente ci andremo a ascoltare Disorder dei Joy Division, con qui ancora Ian Curtis alla voce, l'unico disco che ha potuto registrare Ian Curtis. Joy Division, Disorder, Basement Records, ovviamente Radio Wombat. E non so se ci avete fatto caso, ma ovviamente non era Disorder, ma She Lost Control, sempre da A Non Pleasure dei Joy Division, soltanto nell'altro lato. Ma perché è successa questa cosa? Ma questa cosa è successa perché in questa stampa c'è scritto, non c'è scritto lato A o lato B, c'è scritto inside e outside. Appunto, e rispetto quindi, a che rispetto cosa? A cosa? Cioè, se io sono qui, l'inside è dentro la stanza. Se sono fuori, cioè, quindi il lato A, la prima cosa è dove sono io. Bisogna vedere com'è messo dentro però il disco, se uno ce l'ha messo dentro su quell'altro lato. Infatti, cioè, cosa vuol dire? Appunto è stato, abbiamo messo la prima traccia del lato B. E invece pensavamo di mettere la prima traccia del lato A. Perché invece c'è scritto inside e outside. Io ho messo inside pensando che inside fosse là. Ci è andata bene lo stesso. Vabbè, non è che, perché, cioè, insomma, è che si è messo Fedez, non c'era Fedez. No, in questo disco penso che potresti scegliere veramente. Ah sì, certo, qualsiasi pezzo. Un pezzo a caso sarebbe stato un piacere comunque, sì, sentirlo. Sì. Quindi... E allora, tornando alle le connessioni di parole, pezzo a caso, per due motivi che la canzone metteremo dopo. Pezzo perché i Righeira, non so se lo sapete, ma hanno interrotto la loro carriera musicale a causa della cocaina, perché uno è stato arrestato per spaccio internazionale e si è fatto un po' di anni di carcere a Torino, uno dei due Righeira, non so se lo sapevi. Hotel Mille Sbarre? Sì, e quindi pezzo. E a caso perché effettivamente dopo Joy Division i Righeira sono a caso. Magari se uno non conosce la musica e vede questa roba qui, Insomma, chiediti perché uno l'hanno arrestato. Sì. Appunto, anche di qua, cioè, è logico che ti arrestano, botta c'hai. comunque il allora noi passiamo da la ristampa lituana trovata in un basement a un disco comprato alla svuota la cantina di Sesto Fiorentino. Si chiede, ma perché DJ Lomax ha un disco dei Righeira? Ma perché ci sono questi mercatini interessantissimi ogni tanto in tutte le parti, questi mercatini dell'usato, dove spesso e volentieri trovi anche delle chicche a poco, un valore simbolico. Ultimamente quando i vinili sono tornati di moda, parecchio meno, questa cosa non la trovi più. Cioè, io dopo se ne parlerà dopo, no, non l'ho portato. Vabbè, se si riesce si parlerà dopo anche di un disco di alcuni dischi che ho comprato a un negozio dell'usato di vinili a Firenze. È aperto più, sarà stato aperto due anni questo negozio di musica dietro San Gallo, e ci aveva tipo i Negazioni a 3 euro, i Motley Crue a 3 euro, gli Anthrax a 3 euro, perché lui aveva ricevuto un blocco di dischi, non sapeva che cazzo fossero. Perché ovviamente quando li comprano e li rivendono a così basso prezzo, comprano gli stock. Non sai mai quello che ci trovi dentro agli stock. E lui magari... Spesso e volentieri e gli dici, ci sono... roba. E lui, lo sai vero che ci stai rimettendo, perché anche in Negazione che comprai Little Dreamer, poi guardai un attimo e le copie a meno di 40-50 euro non le trovavi, perché erano state ristampate. Però ristampate alla fine degli anni 80, non recentemente con le ristampe del cazzo, quindi era comunque una seconda, terza stampa. E lui mi dice: ah, io ho ricevuto questi dischi in stock, l'ho pagato in una miseria, pensavo di andarci pari. Infatti, una volta ci ho avuto culo. Sta lì, infatti, il vero valore del collezionista, no? Essere nel posto giusto al momento giusto. Certo. E niente, quindi stavamo dicendo magari i dischi li conosci, chi li sta vendendo no, e appunto ti possono capitare questa occasione incredibile. È proprio quello il bello, anche questo è uno dei tanti aspetti positivi del vinile, è anche quello che secondo me l'ha fatto ritornare fuori. Certo. E noi, appunto, parlando di chicche, abbiamo L'estate sta finendo dei Righeira, che è un singolo. Sì, ovviamente è il pezzo più famoso della coppia anni 80. Di sbambati. Tra l'altro, cioè, vedo che sei abbastanza emozionato questo vinile. Sì, hai visto come... credo che avrà un effetto di distorsione naturale, ma è proprio quello il bello di Basement, no? Sentire come sono stati recuperati questi dischi, e dovreste vedere, ci vorrebbe il video di come sta, girando, questo disco sopra il giradischi, è bellissimo, cioè un effetto psichedelico veramente notevole. Su e giù a diritto. Dai, sentiamoci sentiamoci Righeira. Ovviamente a Basement Records. Scratch in diretta, qua a Basement Records. È tempo che i gabbiani, lo sai che non mi va. Questa era la versione scratch di Abasement Records di L'estate sta finendo. Questa è, mi ricordo perché l'ho pagato così poco, no. Questo disco. Basement Remix, direi. Basement anzi, Remix. Eppure, Madonna, Basement Reedit a questo punto. Eppure io mi ricordo che quando l'ho comprato poi l'ho ascoltato. E quindi non so come mai è diventato... Probabilmente sei emozionato proprio, sì, per quell'occasione lì. Ora sembra quasi tornato dritto, Posso riparare i vostri vinili se volete. Con la pressa manuale, con la pressa, qui a Radio Wombat. La pressa manuale. Tengo la pressa manuale. Ok, dopo questa imminente serie, questa grandissima serie di cazzate, torniamo alla serietà di questo disco, di questo gruppo che metteremo ora. Ah, pensavo che ha sempre contraddistinto questa trasmissione, sì. Quindi ti stavo dicendo di no proprio. Ma immaginavo. E niente, e quindi siamo a parlare di questo vinile. Vabbè. Vabbè, guarda, vedo solo la copertina e già sono in fibrillazione perché... Allora, ora vi faccio una domanda, no? Se voi domani andate a New York, che disco comprate? Cioè, andate a New York, andate in un negozio di vinili e il primo disco che c'è è questo. Restringo il campo. Che fai, non lo compri? Lo compri per forza, vai a New York, è un segno del destino, sei lì, per primo che sta aspettando te. Certo, compri i Beastie Boys, La raccolta dei Beastie Boys, scusami tanto. Il solid gold hit dei Beastie Boys, comprato a New York, ed è un disco alla Madonna, perché ci sono tutti, cazzo, i pezzoni, i singoloni. Come si suol dire, t'ha detto stecco, insomma, non è che è proprio preso di buono il vinile della raccolta dello Zecchino d'Oro. No, di Castellina Pasi che fa il valzer. Oddio, quello potrebbe quasi avere un grande senso. Forse sì. Un gruppo preferito di mio nonno, Castellina Fasi. La discografia fare. In cassetta. Guarda, mi sono letto delle cose su Castellina Fasi notevoli. Lo sapevi, tra l'altro, che sono stati loro a fare la sigla di Lupin Terzo, quella sì? con la fisarmonica? Sì. Sono stati Castellina Fasi. Erano super punk, andavano in tour con i furgoni. Sì, erano proprio on the road. La prima banda musicale a farlo di mestiere. Sì, ma infatti... Lo leggevo, ora non chiedetemi perché, era dentro un articolo sulla storia del liscio e dell'evoluzione che ha avuto specialmente negli ultimi anni, che lo stanno rimodernizzando. Sì. Ci sono un po' di gruppi che stanno aggiornando le sonorità storiche del liscio. Guardi canale 10, che è il canale preferito di mia nonna, c'è tutto il liscio del mondo. Ma quello è quello old school, però. No, ci sono tutti i gruppi nuovi. Anche quelli nuovi? Sì, cioè comunque... È vecchia scuola, però io parlo proprio di questi gruppi che stanno portando il nuovo suono del liscio da un'altra parte, come hanno fatto col country in America, e stanno alla fine il liscio è il folk italiano. Sì, fondamentalmente, cioè, sì. È il folklore, la musica folklorica, non nel senso di folk americano, ma nel senso di musica connotante della tradizione. Certo. E appunto in questo articolo leggevo un po' della storia del liscio, e Castellina Fasi è stato un precursore. Sono stati dei precursori, perché sono stati quelli che hanno portato poi il liscio, che era un suono, la balera tipica della Romagna. Poi l'hanno portata a giro in tutta Italia. Solo, mi sa che andavano anche in Germania. Si sono fatti dei tour devastanti, tra l'altro. Che poi c'hanno il figlio di Castellina Fasi, sta continuando a suonare. Sì. E lui è uno di quelli che sta portando la tradizione da un'altra parte. Sì, che sta poi anche lui avrà 50 anni. Sì. Però se pensi all'età media della fruizione del liscio, è un bambinetto. Sì, anche perché poi ormai tanti musicisti giovani suonano il liscio. Sì, perché comunque alla fine sono pagati. Io c'ho un amico che l'ha fatto playback, ovviamente. Le orchestre del liscio nelle balere a giro per l'Italia vengono pagate, perché alla fine tutti questi arzilli vecchietti che ti stanno una nottata intera a ballare, poi vai a vedere in una sera delle balere i signori, quanti bianchetti e quanti lo so, vai, i vecchietti sono passisti, magari si fanno tre dita alla volta di vino, ma stagli dietro. Magari cominciano alle 5 la mattina, poi quelli che vanno a ballare non so il vecchietto tipico, e ne so come potessi, come è mio nonno, sta sempre a casa. Quella è gente abituata a uscire, sta fuori, a fa banda. Se vai a ballare il liscio significa che 50 anni e balli il liscio. E quindi c'è alle spalle una buona media di bianchetti. Vabbè, sicuramente hanno un bel fondo, come si dice. Allora, no? Parliamo di questi bianchetti dell'hip hop. Perfetto, eccoli, guarda. Non ce le siamo preparate. No. Davvero? Neanche davvero. Una. Questi bianchetti dell'hip hop che nascono come gruppo punk. Tra perché l'altro. Beastie Boys, il nome BB, è un omaggio ai Bad Brains. È un omaggio ai Bad Brains, perché loro volevano fare un gruppo. Loro avevano un gruppo punk prima dei Beastie Boys. Cioè, erano sempre loro con altre due persone. Non c'era uno dei tre, non mi ricordo il nome, mi sa. Quello che è morto recentemente, si è aggiunto dopo. E loro erano un gruppo punk. C'è un EP, si chiama Aglio Olio, in cui fanno le canzoni si chiama sì. E loro erano grandi fan dei Bad Brains, che sono stati un altro gruppo di Washington, come Manor Threat, Seminari e l'Hardcore. Sono detti il gruppo più veloce mai visto, eccetera eccetera. E loro in omaggio si chiamarono Beastie Boys, BB come i Bad Brains. Poi dopo si buttarono nel rap, che stava nascendo a New York in quegli anni. Il rap questo era il rap core. Sì, e poi niente, questo disco qui l'ho comprato a New York, si è già detto 6-7 volte. E ora New York. Ora, 12. Potevamo mettere an open letter to New York, però non la mettiamo perché abbiamo già detto New York, e mettiamo un classico per non ripeterci a oltranza, sì, sì, sì, sì, sì, sì. E allora mettiamo il grande classico della discografia dei Beastie Boys, ovvero Sabotage, qui a Basement Records, sempre su Radio Wombat. Parlavamo di Scandinavi. Esatto. Parlavamo di Scandinavi e guarda, ti dirò. No, non si può fare. Come no? Una connessione. Come lanci il sasso e poi nascondi la mano. Dai, si fa. Allora aspetta, che la vado a prendere. Ah, però no. Anche se non è Scandinava. Ah, però... come? Eh no, c'è l'Islanda è sempre fa parte della Scandinavia. L'Islanda fa parte della Scandinavia. Sì, sì, sì. Questa sì. Una cosa non la sapevo. Sì, e... sì, sì, sì, sì, sì. Fa sempre parte della Scandinavia l'Islanda. Okay. E se parliamo di Islanda, qual è la prima, il primo artista che vi viene in mente dell'Islanda? Ma io non saprei. Forse c'è un altro gruppo islandese, però figo. Escludendo quelli che bruciano le chiese e che fanno, sì, che fanno black metal. Quelli, quelli sì, sì, quelli sono norvegesi. E tra l'altro sta uscendo un film ora. Lord of Chaos sul black metal, tipo Burzum, sì, e compagnia cantante. Sì, sì, quella gente lì. Hanno fatto un libro uscito 5-6 anni fa e in questi giorni c'è questo film che è tratto dal libro Lord of Chaos, che tratta le vicende dei Mayhem in cui ci suonava Burzum, della morte del suicidio di Dead, di Burzum che ammazza Euronymous. E c'è, fra l'altro, quello che fa Burzum, l'attore, è il fratello di Macaulay Culkin, quello che ha fatto Mamma persona, il fratello più giovane. E appunto parlavamo di speriamo che non faccia la stessa fine di fratello, a proposito di rimbollati, sì, quegli eroinomani, spero per lui. Comunque parlavamo l'altro giorno, quando eravamo a suonare, di questo film, e da lì è nato poi il discorso a Mamma ho perso l'aereo, come si diceva prima, sì, è uscito nel 94, sì, perché parlavamo di Lord of Chaos, o comunque Scandinavia, Islanda, Björk. Subito, appunto, dicevo, la prima persona che vi viene in mente può essere solo esclusivamente Björk. Questo disco l'ho comprato, ora vi chiederete perché tutta sta roba su Björk, perché boh, alla fine c'ha una voce bellissima, mamma mia, riesce, no, artista di livello, di livello in... ora può piacere o non piacere, però sul livello artistico di Björk no, infatti non c'è, possiamo... niente da dire. Giacco precedenti con i Sugar Cubes, rivisto su coso, sul tubo, mi sembra il primo concerto ufficiale di Björk, ancora prima delle Sugar Cubes, che suonava in un gruppo punk di cui non mi ricordo assolutamente il nome. e lei era giovanissima, forse non so nemmeno se magari era maggiorenne oppure no, e non erano per niente male. Ora non mi ricordo assolutamente il nome, perché è proprio nome scandinavo. Non era un nome inglese, ma per puro caso, sai, quando girelli sul tubo e roba così, e trovai appunto questo video del primo concerto, di quello che si presume sia il primo concerto di Björk, quantomeno documentato. Era veramente una ragazzina. Sì. Anche cioè, ora sembra sempre una ragazzina, però mi immagino era ragazzina negli Sugar Cubes. Immaginatevi nel gruppo prima, infatti, che saranno stati qualche anno prima. Comunque, alla domanda gruppi islandesi, ti rispondo sicuramente. Ti rispondo, non mi ricordavo, sono andato a vedere grazie a Google. I Sigur Rós, non so se conosci, certo, sì, che certo, anche loro sono islandesi. Certo, sì. Era lì che dicevo, come cazzo si chiamano, madonna. Tutt'altro genere. Tutt'altro genere, molto certo. Più ambient, sì, molto sì, più però psichedelico. Ogni tanto anche Björk sfocia in quella roba lì. Sì. Cioè, è una che varia molto. Tra l'altro di Sigur Rós, particolarissimi, perché sia le canzoni che i titoli delle canzoni sono tutte rigorosamente in islandese. In islandese, certo. E questo disco qui l'ho comprato. Tra l'altro, le scritte non mi sembrano in islandese, no, di questo disco. No, in giapponese. Esatto. Allora, questo disco l'ho comprato a Riolo Terme, che è una ridente località termale in Emilia Romagna, in Riolo Terme, in cui ho lavorato per 8 mesi in un hotel a fare il cameriere. E fanno spesso, lì ogni anno fanno questo festival rock che si chiama Frogstrock, una cosa del genere. Frogstrock. Cioè la F e la G finale, nel mezzo un pastrocchio di consonanti. Insomma, il resto delle lettere mettetecelo voi. Mandatecelo su postawombat@insiberia.net, mi raccomando. E vi sto disco a poco. Tipo 5 euro, ho detto, compriamolo. Certo, e poi un disco di Björk a 5 euro. Sì. Poi, per variare. Vedo, in edizione giapponese sembra, ora non so se comunque è con gli ideogrammi sopra. Sì, è la. Questa è la colonna sonora di un film. E non so perché. Che non è Dancer in the Dark di Von Trier. No. E niente, non so se si sa perché c'è il giapponese. Non mi sono documentato troppo su questo disco. L'ho comprato, l'ho ascoltato. Come quando lo stesso approccio più o meno che hanno le persone quando scaricano da internet le cose. Vedono il titolo, lo scaricano e poi lo ascoltano e se lo continuano ad ascoltare. Se gli piace lo tengano, se non gli piace lo cancellano. Sì, allora anche qui non c'è scritto lato A, lato B e ovviamente non noi mi ricordo. Noi mettiamo la prima. Sì. E poi dopo diremo qual è la canzone che abbiamo ascoltato. Questi vinili che non hanno segnato il lato, però ce ne accorgeremo. Sorprese su Basement Records, Radio Wombat. This beautiful view from the top of the mountain. Every morning I walk to the eye and this rule little same song. Like car parts, bottles and crackery, or whatever I find lying around, it's become a habit. I will wait to start the day. I go through all this before you end up, so I can feel happier to be inside the pen with you. I go through all this before you end up, so I can feel happier to be. It's real early morning. No one is awake. I'm back at my crib, still throwing things up. I listen to sounds they make on their way down. I follow with my eyes till they crash. I wonder what my body would sound like slamming against those rocks. And when it lands, will my eyes be closed or open? I go through all this before you wake up, so I can feel to be inside the pen with you. I go through all this before you wake up, so I can feel happier to be inside the pen with you. I go through all this before you wake up, so I can feel happier to be. Tra l'altro versione live sembra, eh? Sì, questo è una ristampa di un disco che praticamente non dovrebbe essere in vendita. Infatti leggevamo sopra il centrino del 33 sample not for sale. E tra l'altro ora mi informo se magari si può vendere a una cifra molto alta. Perché guarda, perché versione, anche versione così giappa. Sì. Tra l'altro, curiosità, per essere sicuri poi di darvi le informazioni giuste, avevamo provato a shazammare questa Hyper Ballad e non la trova da nessun risultato, perché deve essere proprio una riedizione, un'altra versione appunto della famosa canzone di Björk, uno dei suoi brani più famosi, più conosciuti. All'inizio non si riconosceva, ma poi quando appunto canta il ritornello, sì, cazzo, sì. Cazzo, questa sì, è quella, come si chiama? Però dubbi, però dubbi, e poi dubbi, però anche certezze. Sì, sì, certezza è Fair Ballad, sicuramente. Poi quando è partita la canzone nella fase centrale, ce l'abbiamo fatta a risolvere il mistero, sì, esattamente. Sì, quell'acutino lì. Esatto. E niente, quindi anche io oggi ho scoperto di avere un disco che forse è raro e posso vendere una cifra molto alta per comprare altri dischi. Cosa si può dopo, mentre facciamo ascoltare questo, andiamo a controllare. Sì, sì, controlliamo, perché magari su Discogs lo troviamo a 500 euro. Sorprese a Basement Records. E dalle sorprese passiamo alle certezze. Qui vedo la copertina. Certezza assoluta, una direi. Una certezza del rock. Abbiamo qui un volume 4 di Black Sabbath. Infatti vedo in copertina l'amico Tozzy Osbourne. Che è lì che spadroneggia. Spadroneggia. Qui è ancora, tra l'altro, sembra ancora vivo. Sì. Non sembra nello stato di zombie di adesso. Cozzo, te li vedevi gli Osbourne? Sì. Cozzo. No, vabbè, ma cozzo. Andavano visti in versione originale. Che dice sempre fuck. No, ma al di là di quello, cioè, il doppiaggio, in quel caso lì, ti toglie proprio l'esperienza che stai guardando un non morto, perché nella versione originale, in inglese, quando parla... Cioè, è evidente che è uno resuscitato, cioè, non può essere vivo uno che non riesce neanche a articolare una parola, no due, una. Però quando canta ancora sembra che cantare ce la faccia, perché insomma, è passato anche ultimamente e ho degli amici che sono stato ad ascoltare lui, Ozzy, qui a Firenze. Esatto. E sembra che cantare ce la faccia ancora. Sì, hanno fatto anche il tour d'addio dei Black Sabbath due anni fa. Non so come faccia, perché gli Osbourne roba ormai di una decina d'anni fa. E già ai tempi, cioè, non riusciva a articolare una parola. Quindi, boh. Sì, sì, no, era lavoro. Evidentemente le cellule del canto ce l'ha ancora, quelle del parlare, quelle però no. Sono andate completamente. C'era questa leggenda, dicevano i Motley Crue. Lessi un'intervista in cui il batterista di Motley Crue, quello non mi ricordo come si chiama, sta anche un po' Pamela Anderson, che ci abbiamo il disco lì, dopo si guarda. Io no, me lo ricordo solo per il porno, ovviamente. Certo, vale. Insomma, lui aveva paura dei Black Sabbath perché, dice, Ozzy Osbourne andava in giro con le buste della spesa piene di cocaina. Si fecero un tour insieme negli anni inizio anni 80 e dice letteralmente ce l'hai la busta, sì, è la busta, sì, aveva paura delle buste dei Black Sabbath, però erano quelle della Hop. La canzone che ascolteremo è legata alla neve, alla snowblind, e quindi cieco dalla neve. Perché neve? Madonna, alla Tony Montana, questa, direi, perché... Sì. E allora, io intanto picio play. Sì, sì, no, assolutamente. Intanto picio play e poi... Intanto si fa partire, Madonna, com'è psichedelico questo scentino. Sì. Sono già sotto trip, guarda. Cioè. Questo disco l'ho comprato in Germania, a Berlino. In vacanza andai tempo fa nella capitale Crucca e... Trovai questo negozio di dischi che c'aveva tutta roba usata, poco, e presi questo, altra roba, e rimasi molto soddisfatto dal mio acquisto, che comunque era un disco della Madonna, ci credo. Che già conoscevo abbondantemente, e appena l'ho visto ho detto no, comprare subito. Subito. E ora ci ascoltiamo il pezzone. Per forza, Black Sabbath con Snowblind, Basement Records. con questa ballatona hard rock, con questa coda strumentale, bellissimo questo pezzo, proprio uno dei più famosi dei Black Sabbath, però molto molto molto bello. Questo disco secondo me sono belle tutte, sono veramente, cioè non hanno sbagliato niente, veramente. C'è anche un pezzo in cui Ozzy fa voce e pianoforte, Changes, che è super figa. Sì, sì, bellissimo. Mi ero scordato di riaprirti il microfono. Vabbè, ma meglio, è bello della diretta. Comunque, l'avranno sentito di rimbalzo dal mio, però. Sì, va bene. E questo si può dire che era. Ci possiamo salutare con questo pezzone. Sì. Sento, metto un po' di sottofondo per fare. Sì, certo. Ce lo possiamo permettere. Certo. Un pochino bassino. Sì. Com'è? Si sente? Stai alto? Sì, no, va bene, si sente, no, perfetto. Questo tappeto sonoro. Sì, tappeto Black Sabbath. Perfetto per i saluti. Che sono ottimi anche per pulire i Black Sabbath. Li metti e pulisci. Vai piano, però. Ma dici, ma pensavo che finivi le pulizie in 12 secondi. No, con i Black no, quello metti il grind, il thrash metal, tupa, vogliate. Guarda come spazi. Altro che Mastro Lindo. Ah, sì. Altro che Folletto. E comunque dai, siamo arrivati a fine. È stato. Guarda, sarebbe veramente potuta andare avanti altri durare non so quanto, però tra un po' ci linciano, non lo so. Magari ci verranno a bussare qua nella tana del Wombat. Vabbè, per possiamo rifarla tra un po'. Certo, con sei calma. Sempre un ospite graditissimo. Dai, è stato un vero piacere. I dischi non sono riuscito a mettere. Sì, ti aspetto. Li metterò. Ti aspetto senza meno. Direi. Vai. Senza meno. E a questo punto, allora, salutiamo i nostri amici qui che ci ascoltano su Radio Wombat e rinnoviamo l'appuntamento, come dico sempre, con la radio, con la prossima trasmissione in diretta, che sarà come sempre domani pomeriggio, la domenica pomeriggio di Wombat in relax con la fuga del gatto, la sezione di musica classica che tra l'altro ascoltatissima di Radio Wombat, ha un sacco di ascolti. Molto meglio di Radio Toscana Classica. Vorrei vedere, visto che ci dà la possibilità di recuperare dalle fatiche del sabato sera, come dico sempre, lì le nostre grandi Bloody Mary e la Virgi che ci fanno recuperare quando siamo lì sul divano con la bava alla bocca in ripresa dalle fatiche del sabato sera. E la musica classica appunto di Radio Wombat con la fuga del gatto domani pomeriggio, domenica. Allora, è stato un vero piacere. È stato un piacere mio essere qui, caro DJ Lomax. Questo basement, questo basamento, come dicono i miei parenti in America. E come già detto, sappia che ha sempre il pass, il free entry in questo basement. Quando più le aggrada e quando ha voglia ci faccia riascoltare un po' di sano vinile. Sì, ne sentiamo il bisogno tutti di riascoltare il vinile. Sicuramente. Anche se è tornato di moda, ora costano un monte sti vinili di merda, però è sempre bello sentire la musica in quel formato lì, in questo sentire formato qui. Il fruscio del solco. Sì, il fruscio del solco. Buon sabato sera a tutti da Radio Wombat, un abbraccio. Fate a modo. Mai, fate a modo in senso lato, come sempre, Wombat. Wombat!